America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. China Girl, avrete riconosciuto questo brano di grande successo di David Bowie, che è stato scelto da Ralph Lauren, il grande creatore di moda, per accompagnare la sua collezione autunno-inverno, una collezione piena di richiami all'Oriente. Bene, perché vi parlo di Ralph Lauren e di questa sua sfilata? Perché si è chiusa a New York la settimana della moda, la Fashion Week, ribattezzata la Mercedes-Benz Fashion Week, perché c'è una sponsorizzazione della casa automobilistica tedesca che ha spostato i padiglioni dove avveniva storicamente questa sfilata, che erano a Bryant Park di fianco alla New York Public Library, fra la 40 e la 42 e la 6th Avenue, bene, sono stati spostati uptown, vicino al Lincoln Center, subito dopo la 9th Avenue, dove c'è un grande spazio. In genere lì, vi racconto un po' di dettagli newyorkesi, in genere lì si vanno a installare, a insediare i circhi. Quando c'è un circo a New York, vanno in quello spazio, dunque uno spazio molto grande. I tendoni questa volta non sono per il circo tradizionale, però anche quello della moda, il circo modaiolo, direi, è più che rappresentativo. Altro momento importante, saliente di questa settimana della moda è stato il momento in cui Michael Kors, il creatore di moda americano newyorkese, ha fatto la sua sfilata, una sfilata celebrativa che ha festeggiato i suoi 30 anni nella moda. Fra le altre sfilate importanti di questa settimana, Anna Sui, Vera Wang, Narciso Rodriguez, Oscar de la Renta, Donna Karen, Carolina Herrera, Tommy Hilfiger, e devo dire sono fra i più grandi nomi della moda americana che ormai si è affermata non solo negli Stati Uniti, in Europa, ma nel mondo. Fra le celebrities che hanno assistito in particolare alla sfilata di Michael Kors c'erano Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. La città entra in totale fibrillazione quando c'è questa settimana della moda, perché viene invasa da modelle, non che a New York manchino ovviamente, ma ce ne sono ancora di più. Fra gli italiani c'è stata una importante sfilata di Diesel. Ma per parlare in modo più approfondito di moda, di significato di questa mostra e delle altre mostre, perché poi dopo New York ci saranno anche Milano, Parigi, Londra, insomma c'è tutto un grande circuito, abbiamo ai microfoni di America 24 Giulia Crivelli, che è una delle nostre responsabili, nostre del Sole 24 Ore, che segue la moda. E dunque, Giulia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, volevo chiederti, autunno-inverno, perché la mostra è questa, siamo in realtà ormai nell'inverno adesso, ma la moda guarda sempre molto più in avanti. Qual è la tua sensazione di questo autunno-inverno qui a New York? Beh, tornata importantissima, perché comunque le sfilate dell'autunno-inverno per i materiali stessi sono sempre più ricche di quelle della primavera-estate, quindi più divertenti anche da guardare, probabilmente più divertenti da preparare per gli stilisti. Colori caldi ma con degli sprizzi, quindi classici colori autunnali, marroni, verdi, in tutte le loro sfumature, con degli sprizzi di colori, che è un po' quello che era successo per la primavera-estate 2011, cioè quella che c'è adesso nei negozi. Tanti, quindi, colori con delle basi molto universali. Sprizzi di colori che magari riflettono un po' più di ottimismo, o no? Assolutamente, questa è stata un'altra settimana all'insegna dell'ottimismo. Il 2009 e il 2010, anni orribili tutti e due per la moda, in Italia ma anche a New York, tornato un po' di ottimismo, quindi sulle passerelle sì, quello che si vende, perciò anche cose che appunto vedremo, che potremmo dire, beh, quello lo metterei, e non la famosa frase, ma chi se le potrebbe mettere queste cose, però anche un po' di sperimentazione con i ragazzi cattivi tipo Marc Jacobs, che poi magari direttore creativo di Vuitton, per Vuitton fa delle cose un po' meno pazze, ma poi quando sfila a New York, casa sua, con le sue cose, porta in passerella degli abiti che appunto ci fanno dire, oh, ma io però, molto bello da vedere, ma non me lo potrei mettere. Non ci sono stati molti italiani. italiani a questa sfilata? Beh, c'è stato Diesel, ma perché? Ma una volta diciamo che New York sembrava un po' la piazza dove magari distinguersi per non invece confondersi sfilando a Milano, dove è molto affollato. Zegna aveva deciso di sfilare a New York con la linea Z Zegna, quella più giovane. Poi hanno riportato tutto a Milano, forse ha più senso, insomma, che un marchio italiano sfili in Italia, a meno che voglia fare così, dare un segnale particolare, come Diesel, che forse vuole con la sua anima rock, la sua anima denim, dare questo segnale di differenza. Lo stesso vale per Filosofi, che è la linea giovane di Alberta Ferretti, che sfila a New York, però sempre con delle presentazioni molto particolari, in generale in gallerie d'arte riallestite per ospitare una sfilata, una cosa che a Milano sarebbe un po' più difficile fare, e quindi benvenga questa trasferta. Ecco, parliamo di sfilate proprio dal punto di vista tecnico. Ho visto un'analisi fatta sul costo di medio di una di queste sfilate, e allora il costo è calcolato, e questo è un calcolo tra l'altro di Robert Duffy, che è il presidente di Marc Jacobs, in circa $1 milione. Sono sfilate tra l'altro rapidissime, perché proprio questa di Marc Jacobs durava 9 minuti. Ebbene, in 9 minuti spendono $1 milione, vale a dire che ogni secondo costa $1,740. Grossa struttura. Nel backstage, dice, sono impiegati 50 parrucchieri, 35 make-up artist, 70 assistenti per la preparazione delle modelle, oltre ovviamente alle modelle e al resto dello staff. Ecco, è una cifra normale questa? Guarda, l'avevamo calcolato anche noi sul Sole 24 Ore, addirittura forse 4-5 stagioni fa, e anche per noi, diciamo, il massimo era stato €1 milione, quindi comunque anche di più. Se ne possono spendere anche, diciamo, 300.000 per una sfilata classica, magari usando delle strutture dove un po', dove devi solo cambiare delle piccole cose, ma la struttura è già pronta. Per chi come Marc Jacobs vuole fare tutto a modo suo, si arriva molto facilmente a €1 milione. Giulia, ci sarà adesso una puntata a Londra, qua mi sembra il circuito della Formula 1, poi a Milano, se non sbaglio, poi a Parigi. Ecco, a Milano come vi preparate? Milano quest'anno sarà la seconda volta, ma questa è la prova, la vera prova del fuoco, una settimana più lunga, rubando qualche giorno a Parigi. C'è questa piccola guerra con i cugini d'Oltralpe, ci rubiamo i giorni a vicenda, proprio perché non c'è soluzione di continuità. Sfilate anche davanti al Duomo, eventi collaterali forse fin troppi, e questo perché è un po' sicuramente il clima di ottimismo, c'è qualche soldo in più da spendere, ma soprattutto è tornata la voglia di investire in questa settimana, che anche qui è il concentrato in una settimana, ricordiamoci, del lavoro di 6 mesi di tutti gli stilisti e delle aziende che ci lavorano, quindi che lavorano per loro. Perciò per l'Italia, dove c'è ancora tutta la filiera, a differenza di qualsiasi altro paese, vuol dire mettere in vetrina tutto quello che si è fatto, e quindi è importantissimo, c'è molta attesa, i grandi nomi ma anche alcuni emergenti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Elvis Costello, grande star, diciamo un po' del passato, a maggio con la sua band andrà in tour per l'America, si porterà Costello con sé, una specie di ruota della fortuna chiamata Spinning Songbook. Questa ruota, ci sono incisi i titoli di 40 brani e il pubblico potrà far girare la ruota e la band suonerà la canzone che sarà scelta dalla ruota che gira. Vi faccio ascoltare un vecchio successo di Elvis Costello, Pump It Up. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.